Buonasera. Come? No, no. No, ma da quando ho cambiato il programma adesso funziona. Allora, signori, l'indirizzo per della lezione antecedente è sempre lo stesso. Come vi dicevo, volta per volta vado sempre a mettere l'indirizzo della singola lezione come 2012-01-20 corso base. Ma in realtà quell'indirizzo ve lo potete anche dimenticare, quindi non dovete tutte le volte stare lì ad aggiornarlo. Andate direttamente su questa pagina, quindi su ISGD Podcast Unipop Corso Base 2011, e su quell'indirizzo avete volta per volta la pubblicazione delle lezioni. Trovate quindi un link che potrebbe, come questo. Quando voi ci cliccate sopra, lui vi apre una paginetta dove c'è il file in questione, d'accordo? Quindi, nella maggior parte delle lezioni, prendiamone un'altra, voi ci cliccate sopra e dovrebbe partire il programma per ascoltare la lezione. In questa alcune persone mi hanno detto che non sono riuscite perché, come posso dire, il formato con il quale l'ho caricato è diverso dagli altri, perché questo mi permetteva sostanzialmente di ridurre di più la lezione. Se doveste avere problemi ad ascoltare questa lezione, vi consiglio di installare un programma che si chiama VLC, che si può scaricare gratuitamente da internet, si può scaricare ed installare gratuitamente da internet, ed è un programma che, come c'è scritto nella descrizione qua in inglese, vedete dove c'è scritto Place Everything, quindi fa suonare e visualizzare praticamente tutto. È un programma che ha i codec per DVD, CD, Blu-ray, file musicali, file video, file di tutto e di più. E tra le tante cose è anche gratuito. Si può installare e scaricare gratuitamente. Quindi se doveste avere problemi, a parte che io ve lo consiglio a priori VLC, io di solito quando vado a casa di amici, parenti, conoscenti, di solito ci sono sempre due programmi che installo subito, cioè appena arrivo dico posso installare qualcosa? Sì, VLC è uno dei due. VLC è? Uno dei due. Ma basta digitare VLC? No, c'è scritto là l'indirizzo, www.videolam.org/VLC. www.videolan.org/VLC. Oppure appunto se andate su Google e scrivete VLC ve lo trova al volo, cioè. /VLC. Di solito sì. Sì. Allora, signori, non è che voglio gettare tutti quanti nello sconforto. Vu/org. Non pu... Al di là dell'indirizzo, che ripeto, si può cercare tranquillamente su Google e lo trova al primo posto, magari non è neanche detto che questo programma qua vi venga richiesto. Cioè, se voi riuscite a leggere quel file senza problemi, ammesso che lo andiate a sentire, perché la volta scorsa mi avete detto che praticamente non l'ascoltate, per cui... No, non cantiamo babbalene. Questo qua, eh? L'ultimo... Comunque, insomma, adesso dovrebbero essere tutti qua. Quindi questo qua è quello del 20 gennaio, questo è quello del 13. Se andate su quello del 13, cliccando sulla lezione, lui parte direttamente. Se non dovesse partire, clic destro e gli dite salva link con nome. E in questo modo lui vi salva il file, d'accordo? Che poi potete aprire appunto con VLC. Anche due. Allora, il problema è questo, ci sono alcuni computer, allora, ci sono, per sentire i file audio e i file video sono necessari dei programmi, e fin qua. Ogni file audio e file video è compresso e ci sono diversi metodi di compressione. Questi metodi di compressione sostanzialmente si chiamano codec, non è proprio corretta la descrizione, ma giusto per introdurre il discorso. Quindi sostanzialmente io ho un file, il file che possono leggere tutti si chiama file wave, ok? E questo programmino qua registra in wave, solo che il problema è che un'ora di registrazione in wave sono qualcosa come 120 megabyte. E 120 megabyte, al di là del fatto che costano tanto su un computer, per scaricarli e per uploadarli ci si mette un'ora e un'ora. E quindi non posso pensare che voi ci mettiate un'ora per scaricare una lezione, già non me la sentite. Se poi cercate di sentirla e ci mettete un'ora per scaricarla, è pressoché fatto. E allora cerco di comprimerle. Allora, la volta scorsa con Log Vorbis sono riuscito a comprimerlo fino a 26 mega. Questa volta Log Vorbis era troppo grosso e quindi ho dovuto trovare un altro formato. Ho trovato l'MP4. L'unica cosa è che non tutti i computer hanno tutti i codec. E allora ecco il motivo perché di tutto questo spiegone. Poi, se uno ha il codec installato sul computer, schiaccia e questo parte, è fine del discorso. Lo so, però così sentendo altre persone su... Meglio così. Ok, benissimo. Va bene. Ora, signori, dopo tutta questa introduzione, ritorniamo al nostro Word. Il pulsante Tab si trova esattamente sopra il lucchetto, a sinistra. A sinistra c'è il simbolo di maiuscolo, sopra il lucchetto, sopra ancora il tab. E sono due frecce una contro l'altra. Sì. Ok. Comunque, la volta scorsa siamo arrivati al tab, alle tabulazioni fisse e variabili, vero? Perfetto. E avevamo lasciato un po' in sospeso le variabili, sostanzialmente. Benissimo. Ok, allora riprendiamo quindi dalla fine della lezione scorsa. Abbiamo visto quindi che c'erano abbiamo visto che c'era che c'è un righello. Sulla sinistra di questo righello c'è un pulsante con una L e abbiamo visto che andando a schiacciare su quel pulsante con quella L diventava una L rovesciata, una T rovesciata con un puntino, ok? E ricliccandoci poi ripartiva da zero. In realtà se avete provato a casa avrete visto che ci sono degli altri simboli in mezzo, ma quegli altri li lasciamo perdere. Sostanzialmente noi dobbiamo immaginare di voler una sorta di schema sul nostro foglio. Quindi abbiamo fatto l'esempio del riepilogo vendite. Quindi riepilogo Torino, Genova, ok? E abbiamo detto Torino e Genova sono allineate a sinistra, cioè ipotizzando una sorta di colonnina virtuale, io avrei una colonnina virtuale qua. Dico bene? Quale simbolo devo usare per avere una colonnina virtuale allineata a sinistra? La L. Giusto? Quello mi dice allineato a sinistra. Poi, supponendo di voler andare a inserire, ad esempio, la fatturazione fatta a Torino e a Genova, che magari sarà 10.000,33 e 1.000,323, quale simbolo dovrò utilizzare per ottenere un allineamento del genere? La T puntata, quindi la T rovesciata con il puntino. Questo mi dà un allineamento di questo tipo. Quindi sostanzialmente io in un caso come questo, in uno schema come questo, voglio simboli di colonnine virtuali, è bruttissimo da dire, me ne rendo conto. Comunque voglio due incolonnamenti, ecco, forse un pochino meglio, uno allineato a sinistra e l'altro al punto decimale. E allora, nella lezione scorsa noi ci eravamo fermati dicendo, ok, in questi casi io vado a schiacciare questo pulsante fino a che ottengo il simbolo desiderato e poi clicco sul righello dove voglio quel simbolo. È chiaro? Avete provato a casa? Sì, sì, adesso bisogna vedere come cancellarli, come spostarli. Quindi sostanzialmente se io voglio un punto, un simbolo di punto... è qua. Se io voglio una colonna virtuale all'incirca qua, vado a cliccare sul righello in questa posizione. Vedete che appare quel simbolino lì, quindi la L... ma soprattutto io sto continuando a tenere permuto, se voi cliccate, mollate, non lo vedete questo, vedete questo incolonnamento, d'accordo? Poi cambio il pulsante che c'è qua, fino ad ottenere una T rovesciata con un puntino, la vedete? E vado a cliccare all'incirca in questa posizione. Vedete che anche qua mi appare questo simbolino con la T rovesciata del puntino, e la colonnina virtuale. A questo punto, riepilogo vendite, schiaccio a capo, nel momento in cui schiaccio tab, lui non si sposta di una larghezza fissa, bensì esattamente al simbolo che avevo piazzato prima, quindi in quella posizione. Scrivo Torino, schiaccio tab, e lui si sposta sull'altro punto, 10,33, scrivo Genova, 1000, d'accordo? Quindi incolonnamento rispetto al punto decimale. E sostanzialmente con questo vado a risolvere entrambi i problemi della tabulazione fissa. o meglio, non è che fossero problemi, era un'impostazione. La tabulazione fissa non mi permette di avere questa mobilità, questa promiscuità di incolonnamenti e soprattutto è fissa, se no non si chiamerebbe fissa, appunto. D'accordo? Ora, che cosa che ci rimane da vedere? Prima di tutto, come cancellare un punto di tabulazione e come spostarlo. Sì, supponiamo che per esempio questo incolonnamento qua non mi va tanto bene, Torino e Genova li voglio un pochino a sinistra, devo spostare il punto di tabulazione. Allora, prima di tutto è necessario capire una cosa, che una volta che voi inserite dei punti di tabulazione, quelli sono validi nella zona nella quale avete scritto. Se voi continuate a scrivere in questa zona, loro continueranno ad essere validi, per cui prima o poi bisogna toglierli. Ok? Come si fa a toglierli? Prima di trascinarli. Allora, prima di toccare i simboli. Bisogna? Allora, prima di tutto bisogna togliersi da questa zona nella quale c'è la tabulazione. Quindi la prima cosa è avere il cursore oltre alla zona tabulata, che sono un sacco di parole per dire che sostanzialmente il mio cursore che sta lampeggiando lì devo schiacciare una o due volte invio. Fuori. Perché se io il punto lo tolgo mentre il cursore è ancora lì sopra, in realtà glielo vado a togliere o a Genova o a 1000,32 e quindi se ne va a pallino la tabulazione. Quindi prima di tutto il cursore, è chiaro quello che sto dicendo? Il signore che mi sta guardando con occhio attonito. Non ho quello ancora dopo. Sì, una, due volte. Cioè l'importante è che anche lì, attenzione che non è che bisogna dare invio bovinamente, cioè non è che dovete dare invio qua, perché sennò vi salta la tabulazione. Dovete dare invio quando siete al fondo della tabella, quindi qua. Ma anche lì non è che voglio dirvi date invio, perché sennò a casa dove siete date invio e vi succedono le cose più improbabili. Quello che voglio dire è che dovete avere sto cursore fuori dalla zona tabulata. Sì. Il problema è che se ancora non hai scritto niente, col mouse non ci va. Quindi un invio comunque lo devi dare. Però ripeto, non voglio darvi l'invio, perché sennò voi l'invio lo date quando siete. Dovete darglielo per uscire fuori dalla zona tabulata. Primo. Secondo. Acchiappate il punto decimale. Cosa vuol dire acchiappare? Vuol dire che ci vado a cliccare sopra e tengo premuto. È un po' gergale, me ne rendo conto. Ma. Si prende il punto di tabulazione che abbiamo piazzato sul righello. Sì, per quello che mi piace acchiappare, perché dà proprio l'idea che ci clicco sopra e lo tengo premuto. Lo trascino verso il basso. e lascio il pulsante. Ok? Cioè, è un po' sostanzialmente come se riuscissi a cadere. Verso il basso. Lo togli dalla linea. Quindi lo acchiappo, lo porto verso il basso, lascio il mouse e lui è sparito. E toglierlo. Lo acchiappo, basso, mollo. E lui scompare. E no, sì, sì. Non è che lo devo riportare a casa. No, perché il problema è che se lei lo riporta a casa, in realtà quello che succede è che non, cioè, o a un certo punto lei più o meno, cioè, non, sì, oddio, vabbè, però diciamo così, perché in realtà lo si può anche portare a casa, va bene. Va bene, comunque insomma l'importante è che questo signore sparisca, poi insomma se lo volete riportare a casa voi o lo volete gettare, prego. Se faccio il ripristina, ricompaiono? Sì. Uno e uno, due. Per andare? No, non le piace questo metodo. Non lo so, sinceramente non me ne vengono in mente altri. Però in realtà è così comodo. Cioè, una volta che c'è il puntino lì, lo piglio e lo butto, non mi sembra... è fattibile, via. Prego. Ma se io ho detto sì, scrivo ripristina, rimette la tabulazione. Sì. No, perché sennò lui cancella anche la notazione personale. Allora, o lei lascia i punti di tabulazione qua e qua, ok? Quindi scrive la sua notazione personale, va a capo, continuando a lasciare la tabulazione, perché la tabulazione entra in gioco finché lei non schiaccia tab. Mi segue? Sì? Sì. Può scrivere tutto quello che vuole. Va a capo, schiaccia tab e lui riparte con la tabulazione. Ok? D'accordo, signori? Benissimo. Quindi sostanzialmente se uno vuole mantenere la stessa tabulazione su tutto il documento, comunque su anche successivamente, si fa la sua tabellina, scrive quello che deve scrivere e poi riparte con il tab. Ok? Se viceversa uno dice no, io ero arrivato qua e poi questi punti di tabulazione li voglio cambiare, o semplicemente li voglio proprio togliere perché voglio ripassare la tabulazione fissa, una volta che è fuori dalla sua tabella, tira giù e sono finiti i punti di tabulazione. Per cui a quel punto uno può scrivere la notazione personale tutto quello che vuole. D'accordo? Chiaro che a questo punto se schiaccia di nuovamente tab, il tab va tab fisso, perché non ci sono più i punti, quindi tab, tab, tab, tab, a questo punto è un tab fisso. Chiaro per tutti? Benissimo. Attenzione perché se io clicco qua sopra, i punti di tabulazione riappaiono. Ma la cosa non ci deve stupire perché, come avevo detto prima, i punti di tabulazione sono in una determinata zona. Se io poi vado sotto vuol dire che li ho tolti, ma sopra rimangono. Non è un errore, è corretto. Cioè, sotto che li ho tolti non ci sono, sopra dove li avevo messi ci sono. Quindi la cosa non ci deve stupire particolarmente. D'accordo? Volendo io posso andare di qua, clicco, rimangono i due punti e posso continuare con il mio elenco. Ok? Come si fa invece a spostare i punti decimali, i punti di tabulazione? Prima di rispondere a questa domanda in particolare, vi faccio solo vedere, se voi non siete fuori dalla parte tabulata, quello che succede è che se buttate via, vedete che il cursore in questo caso è qua, è la stessa cosa se fosse qua ad esempio, se voi buttate via uno dei punti di tabulazione, che cosa succede? Succede che in quella riga salta la tabulazione. È chiaro perché prima continuavo a battere sul discorso, dovete uscire dalla zona tabulata. Perché se voi me lo togliete mentre siete dentro la zona tabulata, sparisce lì. Ecco, se invece lo volete spostare, dovete in primis selezionare tutta la zona tabulata. E vi ricordate come si faceva a selezionare una parte di testo, no? Si selezionava, si cliccava all'inizio del testo, si alzavano tutte le ditine, si andava alla fine del testo e si faceva shift più click. È chiaro, no, questo? Ok, quindi si seleziona tutta la parte tabulata e poi si sposta il simbolo sul righello. Quindi si trascina il simbolo sul righello. Il simbolo sul righello, che c'è sul righello. Quindi io ho questo simbolino qua, guardate, sono un secondo, lo acchiappo, lo sposto, quindi lo trascino e sposto il punto di tabulazione. Prendo l'altro, lo acchiappo, lo sposto, e automaticamente sposto tutto. Anche qua vale il discorso di prima, se voi non mi selezionate tutta la zona tabulata, perché vi dimenticate, e mi spostate il punto decimale, che succede? Succede che lui lo sposta solo dove è il cursore. Quindi se capita questo, non vi stupite particolarmente, tornate indietro con la nulla o il CTRL Z e ricordatevi di selezionare tutto quanto. Ok? Ci siamo, signori? No, no, no, si seleziona tutta la zona tabulata. Anche perché i numeri non li può selezionare da soli, poverini. Cioè non c'è un modo per selezionare solo il numero. Vedete che lui seleziona per forza anche fin là. Quindi deve selezionare dalla prima riga tabulata all'ultima riga tabulata. Va bene? Qualcuno ha delle dispense dietro, così seguo un po' quello che la traccia. Grazie. Quelli sono dei corsi precedenti? Sì. Devono ancora uscire. più che altro considerate che oltre a fare il mio lavoro, che insomma c'è anche quello, e poi la sera, il venerdì sono qua, il lunedì e il mercoledì faccio lezione nel mio paese, il giovedì usufruisco io delle lezioni di chitarra o il martedì libero sera, per cui dove poi ci devo infilare, stira, lava, cucina, e quindi insomma è... Va bene. E poi sabato e domenica dovrei anche fare un po' di vita sociale, perché sennò... Allora signori, torniamo al nostro corso. Poi questa parte la taglio. Allora, tabulazioni fisse e variabili le abbiamo viste. Ecco, nelle dispense a questo punto ci sono le barre degli strumenti. In realtà le barre degli strumenti noi in Office 2007 e 2010 non le faremo. Perché? Perché il concetto di barra degli strumenti nelle vecchie versioni dell'Office implicava il fatto che, essendo lo spazio limitato, mi spiego meglio. Allora, voi avete un monitor, ok? Immaginate che questo sia il monitor. Il monitor inizia qua e finisce qua. Tutti d'accordo su questo, no? E lo spazio è limitato. Essendo lo spazio limitato, più di tante icone in fila non ci stanno. Siamo d'accordo? Allora, già che i comandi sono tantissimi, i comandi disponibili sul programma sono tantissimi, quali sono i vari escamotage? O si fanno le icone sempre più piccole, ma chiaramente arriva un limite fisico per la vista, perché più di tanto non posso andare, oppure si iniziavano a fare tante barre degli strumenti una sotto l'altra. Quindi una riga di barre, di icone, due righe, tre righe, quattro righe e via dicendo. Chiaro che anche lì non posso andare troppo oltre, perché sennò al di là di avere 200.000 icone che semplicemente disorientano l'utente, e poi su schermi particolarmente piccoli, come potrebbe essere un 12 o un 13 pollici, quindi i portatili piccolini che girano oggi, avrei solo icone e niente più spazio per... Quindi si deve raggiungere nelle vecchie versioni dell'Office dei compromessi in termini di icone. Di solito si lascia una, due, tre barre al massimo, e poi o si aumentavano e diminuivano il numero di barre a seconda della dimensione del monitor, a seconda delle esigenze, oppure si andavano ad infilare o a togliere dei pulsanti su queste barre. È chiaro un po' il concetto? Tutto funziona bene, se non che se un utente è particolarmente smanettoncino, talvolta magari infila nelle barre dei comandi che in altri computer magari non ritrova. E viceversa, quindi si rischia di incorrere nel problema che le barre, proprio per la loro possibilità di personalizzazione, a volte confondevano gli utenti. Perché se qualcuno di voi veniva sul mio computer casalingo, ma anche di ufficio, molto probabilmente i tre quarti dei pulsanti che usava non li trovava sul mio. E viceversa io nel computer vostro. Quindi il concetto di barra degli strumenti, così come è stato pensato originariamente, è sparito. E in realtà hanno avuto questa idea, a mio avviso geniale, anche se all'inizio lascia un po' disorientati, di creare dei menu. E quindi nel momento in cui io clicco su un menu, automaticamente mi clicca la barra degli strumenti. E in questo modo, sostanzialmente, hanno risolto una marea di problematiche. In primo luogo, le barre di strumenti sono standard, con i pro e i contro. Il contro è che non la posso personalizzare. Il pro è che in qualsiasi Office 2007 o 2010 nel quale io vado, ho sempre quei pulsanti, sempre nella stessa posizione. Quindi diciamo così, per l'utente finale diciamo, è un vantaggio, no? E devo essere sincero, anche per chi insegna. Perché per chi insegna, io ad esempio tutte le volte a casa dovevo fare la doppia partizione, una era il programma che usavo io e uno era quello che usavo per insegnare. Qua il programma è sempre lui, le icone non le posso cambiare. E d'altro canto hanno risolto il problema dello spazio limitato, perché è chiaro che nel momento in cui mettono una decina di voci, io clicco su una di queste voci e mi cambia completamente l'elenco delle icone, guardate bene anche il vantaggio di poter fare anche delle icone più grosse, a seconda dell'importanza, mentre prima erano tutte standard, tutte piccoline. Quindi insomma, il concetto di barra degli strumenti che è stato introdotto nelle scorse dispense, comunque nelle scorse versioni di Office, viene a cadere, perché in realtà non esiste più la barra degli strumenti in senso stretto, ma esistono dei menu contestuali. Quindi a seconda di quello che io sto facendo, attivo un menu anziché l'altro. D'accordo? Ok. Vediamo le interruzioni di pagina. Poi, di che la dispensa? Si ricordi anche lei poi alla fine di non dimenticarsela. Interruzioni di pagina. Allora, l'interruzione di pagina, come dice la parola stessa, che cosa fa? Interrompe la pagina. Quindi, supponiate che io abbia una pagina che è questa, ok? Arrivo a scrivere il fondo del mio capitolo. Innanzitutto, l'interruzione di pagina è utile quando ci sono dei testi medio-lunghi, non quando c'è la letterina di 4-5 righe, ma con dei testi medio-lunghi. Medio-lunghi vuol dire che implicano almeno la necessità di avere un paio di capitoli, o un paio di sottoparagrafi. Supponiamo che io arrivi a scrivere fino qua, e io qua sono arrivato al fondo del mio capitolo. Voglio iniziare il mio capitolo nella pagina successiva. Allora, di solito l'utente cosa fa? Inizia a fare invio, finché non si trova nella pagina dopo. E va tutto bene. Peccato che poi, se malauguratamente, rileggendo quello che aveva scritto prima, si accorge che magari ci stavano meglio un paio di righe in più, quello scrive un paio di righe in più e nella pagina sotto il titolo del capitolo 2 va un paio di righe sotto. O viceversa, se si accorge che quello che aveva scritto non gli piaceva tanto, poteva eliminare un paio di frasi e quindi un paio di righe, cancella un paio di righe e il titolo che c'era all'inizio della prima pagina gli salta due righe sopra. È chiaro questo problema? Ora, l'interruzione di pagina sostanzialmente evita proprio tutto questo discorso. Cioè, l'interruzione di pagina è come se dicesse al programma: guarda che laddove l'utente ha finito di scrivere, tu ti devi bloccare e andare a scrivere poi nella pagina successiva. Quindi, se io vado ad aggiungere 2, 3, 4, 5 righe, non me ne frega niente perché il titolo sotto rimarrà sempre all'inizio. Se io vado a cancellare 2, 3, 4, 5 righe, non me ne frega niente perché il titolo continua a rimanere sempre sotto. E se io addirittura cancello finché passo la pagina sopra, il titolo che era all'inizio della prima passa all'inizio della pagina precedente. Quindi rimane sostanzialmente sempre in testa alla pagina successiva. D'accordo? Quindi possiamo scrivere che, per sintetizzare un po' il discorso, l'interruzione di pagina serve per terminare un capitolo o sottocapitolo, perché di solito è questa l'occasione in cui si ha un paragrafo, no? Un argomento, ed iniziarne un altro nella pagina successiva. se anche dovessi modificare il testo precedentemente scritto, l'inizio del nuovo capitolo sarebbe sempre in una pagina nuova. E spero di essere riuscito a spiegare il concetto. Quindi sostanzialmente, supponiate di essere arrivati qua e di volere iniziare. Ah, innanzitutto diciamo come si fa a inserire l'interruzione di pagina. Allora, sia che voi usiate l'Office 2000-2003, sia che voi usiate l'Office 2007-2010, dovete cliccare sul menu Inserisci. Poi, per chi di voi ha il 2007-2010, vedete che subito trovate interruzione di pagina. Viceversa, per chi ha la versione precedente, deve andare a cliccare su Interruzione. Ecco, guardate un secondo, io adesso clicco su quel pulsante lì e il cursore automaticamente mi salta alla pagina dopo. Io clicco quel pulsante e lui, tac, vedete come mi è saltato alla pagina dopo. Scrivo l'intestazione del capitolo 2, con tanto di inizio di capitolo 2, d'accordo? Ora, se qua sotto facciamolo un po' più piccolo, così lo vedete bene. Così si vede bene, no? Vedete che se io nella pagina precedente vado a scrivere dell'altro testo, vedete come nella pagina successiva il capitolo 2 rimane sempre in testa? Fino a che arriva un certo punto che io non arrivo a scavallare la pagina, ok? E il capitolo 2 si sposta nella pagina ancora successiva. Cioè proprio l'interruzione di pagina vuol dire salta alla pagina dopo. E va da sé, insomma, che se io dovessi cancellare del testo, vedete che se io avessi scritto tutta questa parte qua, mi accorgo che magari queste frasi non le voglio, le cancello, il mio capitolo 2 rimane sempre in testa alla pagina. Sarebbe stato tutto estremamente diverso se io al posto dell'interruzione di pagina, probabilmente come qualcuno di voi faceva prima di sapere questa funzionalità, avessi fatto invio fino ad arrivare qua. Perché che cosa sarebbe successo? Che se io arrivavo qua, dicevo, ah caspita, ci vorrebbero ancora 3-4 righe, 1, 2, 3, vedete come il capitolo 2 scende. Allora devo tornare dall'altra parte, iniziare a dire ok, lo porto su, poi rileggo il tutto e dico ah ma cazzo, da queste frasi magari era meglio non metterle, cancella, e il capitolo 2 è ritornato sotto, e vai e vieni. Quindi insomma, capite come questa semplice funzionalità molte volte possa essere estremamente aiuto. Chiaro, serve nei testi relativamente lunghi, cioè laddove io devo fisicamente separare un argomento da un altro. Nei testi piccoli, tipo una lettera, l'interruzione di pagina non si usa. Come ho fatto? Diminuendo lo zoom. Arriva a un certo punto che lui le mette una a fianco all'altra. Se invece riallargo lo zoom, lui tac. D'accordo? Se vi state chiedendo invece come ho fatto a diminuire o aumentare lo zoom senza fare lo zoom, come? Sì, io effettivamente questo non lo uso mai. Trovo molto più pratico, ma perché mi piace la manualità con mouse e tastiera, schiacciando il pulsante control e muovendo la rotellina del mouse si diminuisce o si aumenta a piacere. Control e poi per chi ce l'ha la rotellina, muovendo la rotellina del mouse. Oppure giustamente, come diceva il signore, qua in basso a destra, ma devo essere sincero, io non me lo ricordo mai perché non lo uso, c'è questa specie di ascensorino che muovendolo sposta lo zoom. L'interlinea, signori, l'abbiamo già visto? Sì. In alto a destra. Simbolo? No, più sotto. Questo? Sì. È il righello. E il righello, cioè mi permette di attivare o disattivare il righello, che è quello che abbiamo usato nella tabulazione variabile prima, d'accordo? Ok, signori, allora la prossima lezione poi inizieremo con l'intestazione del piedi pagina, perché è un argomento un po' lungo, non vado proprio di pari passo con le dispense, ma passo a un argomento successivo, che sono dunque i margini e i rientri. Posso arrivare. Allora, se noi prendiamo una pagina, se noi ci disegniamo, disegnatevi il contorno di una pagina sugli appunti. Questo qua è il contorno di una pagina e sopra disegnatevi il righellino. Un cretino. Allora, abbiate pazienza, in realtà la pagina è questa qua, ok? Dunque, questo qua è il margine e questo è il margine sinistro. È chiaro, no? Cos'è il margine? Vi ricordate quando eravamo bambini e facevamo i temi, c'erano gli A4 con il margine sinistro più in là? Che carini. Ok, io inizio a scrivere, tipicamente nelle lettere commerciali si inizia a scrivere con la prima riga leggermente più a destra. Quindi inizio a scrivere, ta ta ta ta tank, ta ta ta ta tank, ta ta ta ta tank. E questo è il rientro della prima riga. Quindi poi schiaccio invio, riprendo sotto e riprendo leggermente rientrato. Schiaccio invio, vado a capo e di nuovo è rientrato. È corretto, no? Sì. Signore? Quello dietro? Esatto, vedete. Sul rientro della prima riga ci siamo? Sì. Il signore dietro, lei? Non c'era una scuola. Sì, no, ma di solito questa è una convenzione che si usa nelle lettere, soprattutto di tipo commerciale, via. E nelle lettere di tipo commerciale tipicamente si ha l'abitudine, probabilmente per bellezza estetica, non lo so, di rientrare la prima riga di un tot. E poi si scrive tutto quello che si deve scrivere, si schiaccia a capo, si riva a capo e si rientra nuovamente di un pochino. Ogni tanto si vede questa convenzione anche sui libri, sulle antologie o altro. È una convenzione. Ora, se nel flusso del mio testo voglio mettere delle citazioni, solitamente le citazioni sono leggermente più strette rispetto al resto del testo. Dico bene? Quindi, a un certo punto, tipicamente sono in caratteri courier, che è quello tipo la macchina da scrivere, no? Quindi ho una bella citazione che è leggermente rientrata. E quindi questo si chiama rientro destro e rientro sinistro. Da non confondere col margine, perché il margine è per tutta la pagina, il rientro soltanto per quel pezzettino di testo. Tanto è vero che quando si finisce la citazione si ritorna sotto e si riparte a scrivere il mio testo normalmente all'interno dei margini. Tutto chiaro? Perfetto. E allora, vedete che sul righello c'è questo simbolo qua, che è questa sorta di clessidra incrociata, dall'altra parte non c'è solo la parte sottostante della clessidra, è vero? Ok, e allora, ascoltatemi bene, poi fate delle prove a casa e la prossima settimana lo riprendiamo questo discorso. Questo simbolo qua serve per il rientro di destra. Mentre se voi modificate questo, modificate il margine. La la separazione tra la parte bianca e la parte un po' più... Ma non è la distanza, è proprio quella linea impercettibile che c'è in mezzo tra la parte bianca e la parte azzurra. Sì, modifico proprio il margine. Adesso segnatevelo, poi ve lo faccio vedere velocissimamente perché devo chiudere. E... No, alle 9. E allora? No, ma perché stavo già pensando all'access dopo. Questa parte qua, questo simbolo qua, è il rientro sinistro. Il simbolo soprastante è il rientro. Come? Non ho capito. Il rientro della prima riga. No, il margine è nuovamente la separazione tra la parte azzurra e la parte bianca, questa parte qua. Ma non potevano fare il rientro della prima riga come rientro? Non è così. Perché? Beh, è una convenzione commerciale, che ne so io. Ma... Sinistro, no? È una prima riga. E no, no. Un conto è il rientro, adesso lo vediamo. Ok. Supponiate un testo di questo tipo qua. Se notate bene, e questo non è Word, è italiano, tutte le volte che io schiaccio punto e vado a capo, inizio, l'abbiamo già detto all'inizio di Word, un nuovo paragrafo. Quindi io in questo testo qua ho tre paragrafi. Tutti d'accordo? Benissimo. Allora, se io seleziono il paragrafo centrale, abbiamo detto questo simbolo qua e questo simbolo qua servono per modificare i rientri. Quindi se seleziono questo testo, sposto qui e sposto qui, eccolo qua. Attenzione a non fare l'errore che fanno in tantissimi, e i tantissimi che cosa dicono? Partono dal foglio vuoto, tac, tac, iniziano a scrivere, vedono che tutto è più piccolo rispetto ai margini e sono convinti di aver cambiato i margini. E no, fessacchiotto, non hai cambiato il margine, hai cambiato il rientro. Chiaro che se inizi a modificare il rientro dalla prima delle righe, ti sembra il margine, ma non è il margine, stai facendo un rientro. Chiaro per tutti? Ma al di là di modificarlo prima o dopo, insomma, l'importante è che uno sia consapevole esattamente di che cosa sta facendo. Quei due simboli non servono per i margini, servono per i rientri. E il rientro si intende uno o più paragrafi leggermente più rientrati rispetto a tutto il resto. Ecco, vedete che se io vado, vede il signore, proprio tra la parte bianca e la parte azzurra, vede che c'è tipo una linea verticale di congiunzione? Se lei va ad acchiappare quella linea lì, vede che il mouse cambia forma proprio, effettivamente cambia il margine. E il rientro, vedete come si sposta col margine? Tac. Se vado a cambiare l'altro, tac. Ecco, quello sì che è il margine. Tanto è vero che il paragrafo che c'era prima proprio viene più schiacciato. E anche se ci andasse ad infilare un'immagine o qualcosa, quella deve stare all'interno di questo margine. Qua? Inserisci. Assolutamente no, tutta questa roba compare sul righello che non c'entra nulla che io sia qua, che io sia qua, che io sia qua, che io sia qua. Sul righello. Quindi restringendo il margine ci sono molte righe, ovviamente. Ovviamente. Ovviamente sì. Diciamo che... No, allora, lasciamo perdere un attimo Word. Chiudete la vostra concentrazione sul programma Word e entriamo in modalità utente che ha fatto la prima, seconda, terza, quarta elementare. Prima, seconda, terza elementare. In prima, seconda, terza elementare, sì, facciamo le medie. Se io devo fare una citazione, non è che devo iniziare dall'inizio. La citazione la inizio quando voglio. Allora, è come la formattazione del carattere. Ci sono le scuole di pensiero. C'è chi preferisce all'inizio, farlo all'inizio della citazione, quindi fa il suo bel rientrino e inizia a scrivere, e quando ha finito ritorna a togliere il rientrino. C'è chi, come me, prima preferisce scrivere, poi va a selezionare e se lo cambia. Ma questo banalmente perché se vede che la citazione magari è un po' troppo corta o un po' troppo larga, non deve stare lì mezz'ora, una volta che poi ha scritto, ad andarsi a modificare, è un po' più a destra, è un po' più a sinistra, no, forse è meglio farlo un po' più qua, no, forse un po' più in là. Dato che tanto comunque sta sul passaggio qua, si farà di sicuro, secondo me vale la pena prima scrivere tutto e poi andarsi a fare il rientro. Viceversa, ci sono molte persone che invece preferiscono prima fare il rientro, scrivere e poi togliere il rientro. Infatti, quindi secondo me prima conviene scrivere e poi eventualmente vado a cambiare i rientri. Signori, innanzitutto è chiara la differenza tra rientro e margine? Perfetto. Ora, posso essere d'accordo con voi se mi dite che rientri e margini in realtà su 100 documenti che farete, se ne andrete a cambiare su uno è già tanto. Ma questo è un altro discorso. Una cosa che invece si cambia molto spesso per chi utilizza questi strumenti per l'ufficio è il rientro della prima riga. Allora, nel rientro della prima riga, anche qua vado a selezionare tutto questa volta, se io, allora, togliamo i margini, i rientri e quant'altro, se io prendo il simbolino che sta sopra e lo sposto leggermente più a destra, vedete come la prima riga risulti rientrata rispetto al resto del testo. Sì, è perché io qua sono fuori, attenzione, perché io qua sono fuori, ma se io ritorno lì dentro, signora, se io ritorno lì dentro, la prima riga è identata. Soltanto il primo paragrafo, ammesso che questo abbia un senso, seleziono solo il primo e poi faccio così. Se viceversa voglio farlo tutto, faccio questo lavoro qua. Questa roba qua, per chi lo usa, soprattutto nella vita di ufficio, di segreteria, cosa del genere, o ha qualche la segretaria che fa questo lavoro, è molto utile, perché io vedo un sacco di gente a volte rompersi la testa per questo problema qua della prima riga leggermente a destra. C'è chi fa spazio, spazio, spazio tre volte, ma poi te lo dimentichi una volta uno, una volta due, una volta ne fai quattro. C'è chi fa il tab, ma se poi devi iniziare il paragrafo dall'altra parte tutte le volte, togli e metti. Se voi fate questa semplicissima cosa, opla, nel primo dei simbolini, tutte le volte che si esegue il punto e a capo, lui se la identa per conto suo. C'è tutto nel formato paragrafo, nel senso che tutte queste cose qua, quando abbiamo visto il formato paragrafo, vi ricordate che abbiamo visto questo simbolino? O forse non l'abbiamo visto nel carattere? Nel paragrafo, vero? Ok. Nel paragrafo c'è tutto quello che stiamo dicendo, perché vedete che c'è scritto rientri simmetrici, rientro sinistra, rientro destra, rientro della prima riga, vedete? Quindi se voi vi sentite più confidenti con questa finestra, potete farlo su questa finestra. A me personalmente piace di più vederlo su un righello, perché proprio visivamente vedo di quanto lo stringo e di quanto lo allargo. Quando è che è utile farlo di qua? Quando, ad esempio, ho delle necessità stringenti sulle misure. Mi spiego. Ci sono alcuni uffici di amministrazione pubblica, anziché di bandi di concorso, cose del genere, che ti chiedono esattamente delle misure. Tipo A4 con margine sinistro di tot centimetri e margine destro di tot altri centimetri. Allora uno, prima di fare cavolate, se li va a impostare esattamente di qua. È chiaro? Però se uno non ha delle esigenze così stringenti, se lo guarda un attimino a occhio e dice ok, così mi piace, così non mi piace. Ok? Scusi, ma se io voglio annullare quei 2 centimetri come scritto lì, cioè la numerazione che c'è, sì, come faccio ad annullarlo? Me lo dica lei. Prego? Me lo dica lei. Sì, sono andata su annulla, ma... E dove lo trovo annulla? Sì. Ah no? Annulla tutto quello che c'è sulla finestra. Sulla finestra? Sì. Però rimane memorizzato. Sì. Me lo dica lei. Allora, mi dica almeno la partenza, io sono già contento. Signori, da questo corso dovete uscire ed aver imparato 2 cose. Una di queste è quello che mi deve dire. Prima ancora di pensare come si fa qualcosa, cosa deve fare? Ma dove l'ha fatto il selezionare? Che pagina? Lei cosa vuole togliere esattamente? Mi sono persa con... No, lei mi deve... Allora, guardi. Tra lo spazio di righe, no, per vedere come... Guardi, mi permette se la fermo. Prego. Sicuramente gli artisti, gli umanisti, cose del genere, sono affascinati, no, dal fatto che... A me affascina il computer, perché il computer si fa una domanda e lui ti dà la risposta. Allora, la domanda è, che cosa voleva cambiare? In questo caso... In questo caso, cosa vorrebbe cambiare? Vorrei cambiare lo spazio di 2 centimetri. Di 2 centimetri. No, non va avanti. Dove deve cliccare? Su 2 centimetri. Cosa vuole cambiare? Signori, ma questa non è arte. È bellissima l'arte, la fotografia, ma non è arte. Vuole cambiare che cosa? I 2 centimetri. Deve cliccare dove? Sui 2 centimetri. È facile. Clicco. Scrivo 0. Fine del discorso. Rintintin. Sì. Mi comparivano i 2 centimetri. Ma è ovvio, perché poi lei schiacciava nulla. Ah, era quella nulla. No, perché poi... Okay. È ovvio. Perché il problema è questo, che se io arrivo qua e tiro uno schiaffo al signore e poi gli dico annulla, per noi non è proprio annulla. Per il computer è annulla. E vedi com'è facile? È facile. È facile. È disarmato ogni tanto. No, me ne rendo conto. Ma è ancora peggio se qualcuno di voi un domani così, volesse fare il programmatore o avesse bellezza di programmare qualcosa. Io le prime volte, non sono un programmatore professionista, ma insomma ogni tanto mi diletto con qualche linguaggio di programmazione, è disarmante il fatto che abbiamo proprio bisogno di dirgli tutto. proprio vai lì, ma proprio lì bisogna dire, poi prendi questo, poi fai quest'altro, poi fai tutto. E diciamo che è il bello e il brutto dell'informatica. Il bello è che, insomma, non è come alcune persone che ti dicono no e tu devi dire, allora no, ma forse voleva dire sì, ma forse voleva perché io pensassi sì, perché... No, no e no, annulla e annulla, è chiaro che annulla vuol dire annulla. Quindi quando ritorna sulla finestra lui è di nuovo 2 centimetri. Se vuole cambiare 2 centimetri devi cliccare sul 2 centimetri. Ok? Quindi, per ritornare, per tirare le file del discorso, abbiamo detto tutte queste opzioni qua si possono cambiare dal formato paragrafo, cioè dalla finestrella che abbiamo visto la lezione scorsa e che dal menu Home nel riquadro paragrafo si ottiene schiacciando sul simbolino che c'è alla destra del simbolo della scritta paragrafo. Quindi questo simbolo qua. È piccolino, me ne rendo conto, ma se voi avete il 2007 o il 2010 non potete sbagliare, appunto, schiacciate Home, vedete la scritta paragrafo. Sulla destra della scritta paragrafo c'è un simbolino piccolo. Chi ha il 2003 va sul menu formato alla voce paragrafo. E si ritrova questa finestra qua identica. Di qua, ripeto, ci sono tutte le possibilità di cambiare i rientri, l'interlinea, la spaziatura, lo spazio della prima riga, e via cantando. Viceversa, se preferite fare il tutto in modalità, diciamo così, più visuale, ecco, ripeto, questo serve in casi particolari, cioè nei casi in cui appunto io abbia delle necessità stringenti di margini, di rientri e quant'altro. Viceversa, nel momento in cui io ho la possibilità di giostrarmi il tutto in maniera un pochino più visibile, sul righello c'è la possibilità di cambiare i margini, e i margini, lo ripeto, è dove cambia la linea di confine tra la zona un po' più azzurra e bianco, sotto i rientri e questo simbolo qua, la prima riga. Se a casa, come io mi auguro, sulle mie indicazioni passate, avete scritto la famosa paginetta, 2 paginette, 3 paginette per impratichirvi un pochino con il computer, salute, vi invito a ritornare su quel testo lì che avete scritto qualche settimana fa, a selezionare magari le 2, 3, 4 paginette che avete scritto e è proprio la differenza tra il margine, tra il rientro, tra la prima riga e tutto il resto. D'accordo, signori? Ok. Domande su questo discorso? Quella finestra lì, c'è un quadratino che dice non aggiungere spazio tra paragrafi dello stesso studio. Mm-hmm. E quelli sopra, quindi dà lo stesso spazio, perché adesso mi dà uno spazio doppio. Mi dà uno spazio doppio, esattamente, in quel caso lì, come dice la parola, la frase stessa, toglie quello spazio, esattamente. Sì, in realtà, per non aggiungere lo spazio dopo, vede che lì dove c'è scritto spaziatura, c'è scritto prima e dopo, e nel dopo c'è scritto 10 punti. Allora, o si schiaccia su 10 punti e si scrive 0, oppure si può più velocemente schiacciare su quello e non aggiungere spazio tra i paragrafi dello stesso stile. Quella tra l'altro è una funzione che nell'Office 2000-2003 non c'è. Nel 2000-2003 bisogna andare a cambiare il 10 in 0. Ma insomma. Sì, l'unica cosa importante è cercare di capire il contesto nel quale si sta lavorando. Cioè questo qua è il formato del paragrafo. Quindi qua ci sono tutte opzioni inerenti il paragrafo. Quella spaziatura prima e dopo si intende prima e dopo del paragrafo. Quindi nel momento in cui uno vede il numero 10, dice ah, ok, una volta che io schiaccio invio e quindi finisco il mio paragrafo, dopo invece di avere 0 punti, quindi l'interlinea tradizionale, ho 10 punti di spazio. È chiaro? Poi, signori, queste cose qua vengono col tempo, uno ci deve lavorare ovviamente, no? Non è che vengono così d'amblè. Però, diciamo così, l'impostazione, meno male, è questa. Ok? Signori, io vi auguro una buona serata, un buon fine settimana e ci vediamo venerdì prossimo. Mm-hmm.